Today, we shall conclude our series of Dhamma talks on Kusala and Akusala. And you will remember the passage from the Samyutta Nikaya that Satna states, "For a long time has this mind been defiled by greed, by hatred, by delusion." Oggi concludiamo la nostra serie di discorsi su Kusala e Akusala. Ricorderete il passo dal Samyutta Nikaya che dice: per lungo tempo questa mente è stata inquinata da brama, odio e illusione. That same passage goes on to say, make mental defilements, make beings impure, mental cleansings purify them. Gli inquinanti mentali rendono gli esseri impuri, la purificazione mentale li rende puri. So during these last 10 days here at Pyandechiligi Meditation Center, we have engaged in mindfulness practice based on the Satipatthana Sutta and other related discourses. In questi 10 giorni di ritiro qui al centro di meditazione Pian dei Ciliegi ci siamo impegnati nella pratica della meditazione basata sul Satipatthana Sutta e altri testi correlati. For instance, we've practiced mindfulness of the body, mindfulness of feelings, mindfulness of the mind, and mindfulness of dhammas. And in addition to that, we've practiced restraint of the senses, we are observing the 8 precepts, and then there's the slowing down of all activities. Abbiamo praticato la consapevolezza del corpo, delle sensazioni, della mente e dei dhamma, e inoltre abbiamo praticato la virtù morale, il contenimento dei sensi e abbiamo rallentato. Furthermore, we've observed noble silence, of course, except for the interviews, and then occasional practical issues, and we have further trained in concentration as well as in wisdom. Abbiamo inoltre praticato il nobile silenzio, ovviamente con l'eccezione dei colloqui e di altre questioni pratiche. Ci siamo inoltre addestrati nella concentrazione e nella saggezza. Now, when you look back at your very first evening, and then maybe the next morning, and you compare that status with what is currently happening in your practice, would you say it's all uguale, or would you say some differences are there? Se paragonate lo stato in cui eravate la prima sera del ritiro o il mattino successivo con lo stato in cui invece siete adesso, con quello che sta accadendo adesso nella vostra pratica, direste che sono uguali o che c'è qualche differenza? What would you say? Same? No? Well, I remember the first interviews with the retreat with all of you, and a number of you, many of you, the majority of you, reported on drowsiness, on a wandering mind, and having difficulties with the practice, etc., etc. But now, in the course of these last 10 days, a lot has happened, and the mind is in a much better place, and it's much sharper, and a lot has been understood. Certamente ci sono delle differenze, se ricordo il primo colloquio che ho avuto con voi, e molti di voi hanno riportato di sonnolenza, mente che divaga e varie altre difficoltà, mentre adesso negli ultimi colloqui, mentre in questi 10 giorni molto, molto è stato fatto, molto lavoro è stato fatto, e in questo momento la vostra mente si trova in una posizione decisamente migliore, e molto è stato compreso. The Kusala Sutta, that was quoted earlier on in the retreat, states, abandon what is unskillful. It is possible to abandon what is unskillful. And this is, I believe, what many of you have done to some extent. La Kusala Sutta, che abbiamo già citato in precedenza, dice abbandona ciò che non è abile, abbandonare ciò che non è abile è possibile, e credo che questo sia ciò che hanno fatto molti di voi. And the Buddha went on to state, develop what is skillful, O retreatants, it is possible to develop what is skillful. Il Buddha continua dicendo, sviluppa ciò che è che è abile, è possibile sviluppare ciò che è abile. So when you look back at these last 9-10 days, you will surely have come across a number of unwholesome mental states, unskillful states, but you will have also experienced a number of wholesome states. Se guardate indietro a questi 10 giorni, sicuramente avete sperimentato degli stati non salutari, non abili o non funzionali, ma avrete anche sperimentato degli stati salutari. Wholesome mental states, such as purity of ethical conduct, then mental states like calmness and mindfulness and wisdom, loving kindness maybe, compassion maybe, etc. Stati salutari come la purezza della condotta etica e stati mentali come la calma, la consapevolezza, la concentrazione, magari metta e compassione. No. It is important that at least towards the end of the retreat we do a quick review over the development that has taken place, and suddenly we come to appreciate what has been gained. And in the course of such a 10-day retreat, clearly our ability to observe an ethical code of conduct has improved. Our ability to live according to the 8 precepts and with this to cultivate our bodily conduct as well as cultivate our verbal conduct. La fine di un ritiro è certamente utile osservare in prospettiva quello che è successo nel corso di questi 10 giorni e apprezzare i cambiamenti in positivo che ci sono stati, le acquisizioni che ci sono state. Certamente durante questo ritiro avrete sviluppato la vostra capacità di osservare una buona condotta morale e quindi la vostra capacità di seguire gli 8 precetti è certamente migliorata, e così quindi anche la capacità di avere una buona condotta morale in termini di parole e azione. Now, you may have noticed that your ability to concentrate on a predominant object of observation, that ability has also improved. So the mind at the outset of the retreat was certainly in a poor state, hardly able to stick to the rise and fall for more than 5 seconds. And then it would typically go off into thinking. E certamente anche la vostra capacità di concentrazione si è sviluppata. All'inizio del ritiro la mente non aveva difficoltà a stare con l'oggetto per più di 5 secondi, dopodiché iniziava a divagare nei pensieri. We can further acknowledge a major improvement in terms of the wisdom, the development of the wisdom factor, the understanding that we have gained over the last couple of days. In Dhamma talks on occasion, this aspect was covered. So many of you have understood this or learned to discern between physical and mental formations. You've learned to distinguish between what is kusala, what is akusala. You've learned to detect intentions, etc. You've also learned to see causal connections, one object leading, or one condition leading on to another condition. E certamente ci sono stati anche dei miglioramenti, delle acquisizioni significative in quanto a saggezza rispetto all'inizio del ritiro. E durante i discorsi di Dhamma questo aspetto è stato toccato e molti di voi nel corso di questo ritiro hanno imparato a distinguere tra fenomeni mentali e fisici, tra kusala e akusala. A riconoscere, a individuare le intenzioni. And then cause and effect. E inoltre a vedere e riconoscere i nessi di causa ed effetto. Now, when you review these last 10 days in terms of faith, confidence, trust in the practice, you might also see a development there. At first, the mind was somewhat critical, skeptical of this whole meditation approach, but over time, as understanding has unfolded, that skepticism has turned into faith, has turned into quite strong faith. Sicuramente potete apprezzare anche uno sviluppo della fede. E all'inizio del ritiro magari c'erano dei dubbi, c'era dello scetticismo rispetto a questa pratica, ma lungo il ritiro, praticando appunto, la fede è certamente cresciuta e quindi adesso può esserci una fede piuttosto forte. And certainly, typically, also one's ability to exert effort increases. So at first, one comes to the retreat, is totally exhausted from one's normal worldly life, and then within a couple of days, this, however, changes, and energy becomes available. E certamente anche la capacità di mettere in atto dello sforzo è aumentata. All'inizio del ritiro siete arrivati magari stanchi, esausti dalla vostra vita normale, quotidiana, e quindi vi era difficile applicarvi e applicare lo sforzo, ma man mano sempre più energia è stata disponibile. To be really mindful throughout an entire day from early in the morning, 4 o'clock, 5 o'clock, until late at night is not an easy thing to do. It's quite strenuous, both physically as well as mentally. And so this is, the fact that you've managed to do this 10-day retreat shows an ability developing the effort to make it through the 10 days. Essere consapevoli continuamente lungo tutta la giornata, dalle 4 o 5 del mattino fino alle 10 di sera, non è certamente un compito facile, può essere impegnativo a livello sia mentale sia fisico. E il fatto che siate riusciti a fare questo lungo questi 10 giorni mostra una capacità di mettere in atto questo sforzo e quindi una presenza di energia. In the course of this retreat, many of you will have also experienced deep levels of calmness or peacefulness that is very different from the usual restlessness and agitation of the mind. E molti di voi hanno anche sperimentato stati di calma e di concentrazione, con calma e pace, e questo è certamente diverso da una mente irrequieta. Apart certainly from the calmness and peacefulness, we can also take a look at happiness or contentment. So again, some of you may have come onto this retreat with problems at home, unresolved issues, not knowing what to do, not much, and definitely not much happiness in your lives. But then, by patiently observing, predominant objects, then with a purification of the mind, with this some happiness has become available, and not just once but possibly even several times. Inoltre possiamo anche dare uno sguardo alla felicità e alla contentezza. Molti di voi sono arrivati con delle questioni irrisolte a casa e non molta felicità, ma nel corso del ritiro, applicandosi nell'osservazione del salire e scendere dell'addome e praticando la consapevolezza, si è arrivato a sviluppare felicità, e questo non solo una volta ma diverse volte. And certainly that happiness is different from an ordinary happiness that is based on indulging in sense pleasures. The happiness that arises out of the meditation practice is a happiness that is based on a relative purity of the mind. E questa felicità è certamente molto diversa dalla felicità che deriva dall'indulgere nei piaceri di sensi. La felicità che si sperimenta in meditazione è una felicità che deriva da una relativa purezza della mente. Now, we can also take a look at equanimity and the changes that have taken place there. To many, the term, the mental state of equanimity, might be quite foreign, quite alien, something unknown. However, in the course of this 10-day retreat, at least some have gotten a taste of what this equanimity is all about. And that is extremely valuable, because for one's daily life, it serves as a reference point. This is what equanimity is, and then to take that into one's daily life. E possiamo anche dare uno sguardo all'equanimità e a come si è i cambiamenti che ci sono stati in termini di equanimità durante il ritiro. E inizialmente per molti questo termine di equanimità può risultare abbastanza estraneo, alieno, ma nel corso del ritiro almeno alcuni di voi hanno avuto un assaggio di quello che è questa equanimità, e questo è di grande valore anche come e funge anche come termine di riferimento per ciò che è equanimità nel momento in cui torniamo alla nostra vita quotidiana. Now some who've been practicing already over a period of several years on and off going on retreat have even reported a much more profound equanimity, oftentimes lasting for longer periods of time. Mentre chi già aveva già praticato a lungo in precedenza ha sviluppato un livello più profondo di equanimità e sperimentando questo stato di equanimità anche per periodi estesi. And so now those kind of retreatants, through experience, really come to appreciate that equanimity. So whatever the external or internal formations or conditions might be, the mind remains stable. It remains unaffected, unaffected, unshaken, unperturbed by what is happening. E questi meditanti possono apprezzare il valore di questa equanimità, in cui al di là di quali siano le condizioni esterne, esteriori, che siano favorevoli o non favorevoli, la mente resta stabile. E non è toccata, non è influenzata, non è scossa da quelli che sono gli eventi esterni. Another process, another development that tends to happen in the meditation practice is moving from a more ego-centered point of view to seeing the needs of others, to drop the ego-centeredness and then to see actually what is going in others, what they might be needing and how to help. Un altro importante cambiamento che avviene durante il ritiro è quello di uno spostarsi da un punto di vista egocentrico, centrato sul proprio ego, a un punto di vista più ampio che include anche i bisogni degli altri. The Visuddhi Magga, in its 19th chapter, paragraph 27, speaks of the lesser stream enterer, Chula Sotapanna, in the Pali scriptural language. E il Visuddhimagga 19:26 parla della of a lesser stream entrant, Chula Sotapanna. Della minor di colui che del livello minore di colui che entra nella corrente. Now, what happens is a retreatant over time learns to discern mind and matter, and from there learns to discern cause and effect, sees how physical and mental formations are connected by cause and effect. And this, with this understanding, so overcoming doubt, with this one then, according to the Visuddhimagga, finds comfort in the Buddha's dispensation. Un meditante inizia a impara a distinguere i fenomeni mentali da quelli fisici e con questo impara anche a vedere successivamente le relazioni di causa ed effetto. In questo modo, superando il dubbio, si afferma nei testi che il meditante acquisisce una comfort in the Buddhist dispensation. Una agio nell'insegnamento del Buddha. And Satna Visuddhimagga goes on to say that Satna one has found a foothold, one is certain of one's destiny. E nel Visuddhimagga si afferma che in questo modo foothold, and one becomes certain of one's destiny. Si è raggiunta una base e si diventa così sicuri del proprio destino. No, it's great to become a lesser stream enterer, but one should not rest contented with this and go much further. Ed è sicuro entrare, no, qualcosa che dà sicurezza, entrare nella corrente a livello minore, ma certamente è bene non accontentarsi di questo, non fermarsi a questo, ma andare molto più in là. So we should at least incline the mind towards the realization of the noble path of stream entry. Quindi dobbiamo inclinare la mente almeno alla realizzazione del nobile sentiero dell'entrata nella corrente. Now, the Venerable Sāyadaw Upanīta, beings of Burma, on occasion in the past, encourage or remind retreatants of the following fact, namely, in order to come to a written meditation center, they've given up, at least temporarily, their comfort they're used to from at home. Also, they've given up temporarily their job, their family, and certain mundane happiness in hopes of gaining spiritual or supramundane happiness. E il venerabile Sāyadaw Upanīta alla fine di un ritiro ricordava i meditanti durante i ritiri che per venire a un ritiro avevano abbandonato almeno temporaneamente le comodità della loro vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, la felicità mondana, e questo per ottenere con l'obiettivo, la speranza di ottenere una felicità spirituale o sopramondana. So, if during the retreat you've gained the second insight knowledge, you could be referred to as a lesser stream entrant, and you were then to say, okay, this much is enough, then you would have a problem. Durante un ritiro potreste aver sperimentato la seconda conoscenza, l'insight, e così arrivare appunto al livello dell'entrata nella corrente minore. E potreste a questo punto accontentarvi, dire va bene, così è abbastanza, ma a questo punto avreste un problema. And the problem is as follows. You've progressed a little bit along the path, but you haven't realized anything yet. You haven't realized the path of stream entry yet, and certain other levels of enlightenment. And so you're stuck somewhere in between, and it's kind of the comparison given is like sitting between two chairs. So one's not fully sitting on one, not fully sitting on the other, but just in between. Now, this is an awkward form of sitting. Il problema è questo, che avete siete proceduti un po' lungo il cammino, però non avete ancora veramente realizzato nulla, non avete realizzato il primo sentiero e né tantomeno i sentieri successivi. Quindi è come essere un po' fermi, bloccati nel mezzo. E un paragone è quello di essere seduti tra due sedie, quindi non si è veramente né da una parte né dall'altra. So you've given, on the one hand side, you've given up your worldly happiness, your worldly luxuries, etc. On the other hand, and you're striving for, hoping, you know, to gain supramundane happiness, etc. But you're not reaching it. And so you're just in between. Quindi si è lasciato andare la felicità mondana, e si lotta per o si aspira a una felicità sopramondana, però non si raggiunge questa felicità sopramondana e quindi si è bloccati lì nel mezzo. What I would like to highlight is certainly the potential of the meditation practice, for you to see what is possible through mental development. E vorrei illustrarvi quello che è quelli che sono i possibili frutti della pratica meditativa. And based on 10 days of intensive mindfulness practice, one gets already a certain sense of what becomes possible. E partecipando a un ritiro di 10 giorni, una persona inizia a farsi un'idea, ad avere un'idea di ciò che è possibile con la pratica della meditazione. No. The Satipatthana Sutta of the Majjhima Nikaya ends with a prediction, and that certainly goes as follows. Il Satipatthana Sutta del Majjhima Nikaya si conclude con questa predizione. If anyone should develop these four Satipatthanas in such a way for 7 years, one of two fruits could be expected for him or her. Either final knowledge here and now, or if there's a trace of clinging left, then non returning. Se una persona sviluppa questi quattro satipatthana per 7 anni, può aspettarsi almeno due frutti. La finale completa realizzazione qui e ora, o se rimane una traccia di attaccamento e lo stadio di colui che non ritorna. Yes. So in other words, no one can either become an arahant or a non-returner. Quindi in altre parole si può diventare o arahant o colui che non ritorna. The passage then goes on to say, let alone 7 years, 6 years, 5 years, 4, 3, and so on, down to 5 months, 4 months, 3, 2, 1 month, half a month. E il passo continua dicendo, nemmeno 7 anni, 6 anni, 5 anni e così via, 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi e così via, fino a un mese. Mm-hmm. If anyone should develop these four satipatthanas in such a way for 7 days, one of two fruits could be expected for him or her. Se una persona sviluppa in questo modo questi quattro satipattana, per un periodo di 7 giorni, 2 frutti si possono aspettare. Either final knowledge, here and now, or if a trace of clinging remains, then non-returning. So it was with reference to this that it was said. Now that part, you can never mind that. Questi 2 frutti sono o la realizzazione finale qui e ora, la conoscenza finale qui e ora, o il frutto di colui che non ritorna. Now, with the mindfulness practice, it's important satna that we stick with it. And satna, we go on retreat whenever an opportunity comes up. We also try to integrate mindfulness into our daily lives as much as possible. Con la pratica della consapevolezza, è la pratica satipattana, è importante che una persona mantenga questa pratica e quindi continui non appena è possibile a partecipare a dei ritiri e continui anche a praticare quotidianamente. No. If one keeps satna and satna one's keeps developing one's satna mindfulness over weeks, months, satna even and years, then gradually the changes do take place. Se una persona continua a sviluppare la propria consapevolezza lungo i mesi e gli anni, gradualmente ha luogo un cambiamento. And so the realization of satna, the Dhamma, is said to be a gradual process. La realizzazione del Dhamma è un processo graduale. Or maybe to be more precise, the development of satna, the Dhamma practice, is a gradual process. O per essere più precisi, lo sviluppo the development of the Of the Dhamma practice. Lo sviluppo della pratica del Dhamma è uno sviluppo graduale. A passage from the Majjhima Nikaya highlights this aspect. The Buddha says, I do not say that final knowledge is achieved all at once. On the contrary, final knowledge is achieved by gradual training, by gradual practice. By gradual progress. Il Buddha ha affermato, non dico che la realizzazione finale, achieved by gradual training, but gradual the final realization. On the contrary, the beginning. I do not say that final knowledge is achieved all at once. Non dico che la conoscenza finale è raggiunta tutta in una volta, ma è raggiunta tramite uno sviluppo graduale, un addestramento graduale. Now, there is a lovely, homely illustration for this in the text. E c'è un bel esempio, una bella illustrazione di questo nei testi. Now, as satna retreatants, we have to be like a hen that is sitting on its eggs. All it needs to do is just sit there and provide the eggs satna with warmth. Occasionally it will get up, go in search of food, and then come and sit on the eggs. Come meditanti dobbiamo essere come una chioccia che sta seduta sul suo uovo, quindi cova l'uovo. Semplicemente se ne sta lì, fornisce calore all'uovo, quando è necessario si procura del cibo e poi torna lì, pazientemente. No, in due course, the hen's unrelenting sitting on her eggs will lead to the hatching of the chicks. Quindi con il tempo necessariamente um, Il fatto che la chioccia stia lì sull'uovo senza sosta porterà a rompersi dell'uovo, aprirsi dell'uovo. And likewise with retreatants' unrelenting practice in due course will lead to the realization of the Dhamma. Alla stessa maniera, un meditante che pratica instancabilmente raggiungerà la realizzazione del Dhamma. Now, when all the preliminary work has been done, the realization of the Dhamma, however, is a matter of just a few moments. A dispetto di tutto del lavoro graduale che è stato fatto, quindi della gradualità, dello sviluppo e l'effettiva realizzazione del Dhamma è un fatto di pochi momenti. In this context, start now the Samapada verse 239, which Shatna says, by degrees, little by little, from moment to moment, a wise person removes his or her own mental defilements, just as a smith removes the dross of silver or gold. By degrees. Il verso Dhammapada 239 afferma proprio come gradualmente, livello per livello, una persona removes. Sage. Sorry? A wise person. Yeah. A wise person removes his or her removes the mental defilements, yeah, just as a smith. Una persona saggia rimuove i suoi inquinanti mentali, quindi una persona saggia rimuove i suoi inquinanti mentali gradualmente, strato dopo strato, proprio come un orefice. Who removes the impurities from gold and silver. Rimuove le impurità dall'argento e dall'oro. Now, in this Satna connection, the Udana contains a verse, namely 54, that says, just as the mighty ocean flows down, slides and tends downward gradually, and there is no abrupt precipice, so too in this Dhamma discipline, yeah, the training is gradual, the action is gradual. E dall'Udana troviamo un verso che afferma proprio come un fiume che scorre verso il mare in maniera graduale, senza dei precipizi, alla stessa maniera The training is gradual, the action is gradual. Alla stessa maniera l'addestramento è graduale e l'azione è graduale. Uh-huh. And the mode of progress is also gradual. E la modalità di progresso è ugualmente graduale. There's no abrupt penetration of knowledge. Non c'è una penetrazione della conoscenza brusca, improvvisa. When we reflect on our new practice, some of the key aspects of Satipatthana and Satipatthana meditation are the presence, the continuous presence of mindfulness accompanied by ardent satna effort and satna clear comprehension. Se pensiamo alla pratica della Satipatthana, alcuni punti chiave sono la continuità della consapevolezza accompagnata da uno sforzo ardente e da chiara comprensione. And in this certain regard, as highlighted at the outset of another retreat, the silence and seclusion are two important values. E per ottenere questo, come è stato detto all'inizio del ritiro, il silenzio e l'isolamento sono due aspetti importanti. And certainly when we look here at conditions at Pian di Chileji, it is an extreme or wonderfully quiet certain place. There are not too many such places left. E se pensiamo a queste condizioni rispetto a Pian dei Ciliegi, vediamo che questo è un posto veramente meraviglioso, perché non ci sono, in termini di quiete, di silenzio che sia qui, e non ci sono così tanti posti in cui è possibile avere questa quiete. And so we further try to accomplish seclusion of the body, seclusion of the mind, and eventually this leads to the seclusion of Nibbana. E cerchiamo quindi di praticare l'isolamento del corpo, l'isolamento della mente, e in ultima questo può portare all'isolamento del Nibbana. So when one practices like this, abandoning the unwholesome akusala, developing what is wholesome akusala, practicing mindfulness over shorter periods, longer periods of time, eventually this satna will lead satna to the ultimate realization of the Dhamma. Quindi quando si pratica questo, si abbandona il non salutare, akusala, si sviluppa ciò che è salutare, kusala, e si pratica la consapevolezza per periodi più brevi o più lunghi. Quando si praticano queste cose, questo alla fine porterà alla realizzazione del Dhamma. And certainly the third collection of the Anguttara Nikaya, Discourse 66, states the following. Dall'Anguttara Nikaya, 366. He or she, the Arahant, knows this. L'Arahant sa questo. Mm-hmm. Once there was greed, and that was unwholesome. Now that is no more, and so it is well. Una volta in passato c'era brama, e questo non è salutare. Ora se ne è superata, e questo è bene. Once there was hatred, and that was unwholesome. Now that is no more, and so it is well. Una volta c'era odio, e questo è non salutare. Ora non c'è più, e quindi è bene. Once there was delusion, and that was unwholesome. Now that is no more, and so it is well. Una volta c'era illusione, e questo è non salutare. Ora non c'è più, e quindi è bene. Thus the Arahant lives, even during his or her lifetime, free of cravings, hunger. E così l'Arahat vive i suoi giorni libero da desiderio, free of cravings, hunger. Libero dal desiderio, dalla fame. The hunger of craving. dalla fame del desiderio. Stilled and cooled of Fatna passion's heat. Stilled and cooled. Acquietato e rinfrescato. Senza la passione e il calore della passione. Yes. Feeling happy with his or her heart becoming cool, becoming holy. Felice e libero con il cuore che diventa santo. And so, now this short passage brings us to the conclusion of our Dhamma talk today, wishing that all of us will one day realize that state of an arahant in whom all greed, all hatred, all delusion comes to an end. E con questo passo concludiamo il discorso di questa sera e concludiamo con l'augurio che un giorno tutti noi possiamo raggiungere la realizzazione dell'Arahant e così raggiungere quello stato di libertà dalla brama, dall'odio e dall'illusione. And that's it. Now we've got a little bit of time for questions and answers. A few now, and then maybe tomorrow after the discourse also a few more questions. Abbiamo un po' di tempo per alcune domande, quindi un po' di tempo sarà destinato alle domande questa sera e un po' anche domani. So, the first two questions are by Petra. Petra has put the questions into writing. In daily life, one cannot certainly be continually mindful from moment to moment. Ci sono due domande da parte di Petra e nella vita quotidiana uno non si riesce ad essere consapevoli momento per momento. Consequently, defilements pop up and flourish, ready to take over. E quindi gli inquinanti mentali sorgono e fioriscono pronti a prendere il sopravvento. The question then is, how can one prevent or at least minimize this? E la domanda è, com'è possibile prevenire o almeno limitare questa cosa? No. In terms of an attempted answer to your question, I would disagree with your first statement. In daily life, one cannot be continually mindful. It may at first appear that way, but we should make every effort to be as mindful as possible, as much as possible. Quindi per provare a dare una risposta, in primo luogo dissentirei con l'affermazione che hai fatto, cioè che non è possibile nella vita quotidiana essere consapevoli momento per momento, perché è possibile almeno fare lo sforzo di essere consapevoli costantemente. It is correct, certainly, that in the absence of continuous mindfulness, defilements will pop up and flourish in the mind. That's no doubt there. È certamente corretta l'affermazione che in mancanza di consapevolezza gli inquinanti mentali sorgeranno e fioriranno. Now, At least we could try to maintain a degree of mindfulness that allows us to be aware of our major actions, to be aware of what we're saying, and also to be aware of our predominant mental states, mental objects. Ma possiamo fare lo sforzo di avere un livello di consapevolezza che ci permetta almeno di essere consapevoli delle nostre azioni verbali, delle nostre azioni fisiche e degli stati mentali predominanti che sono presenti. So it's really, the answer cannot be, how to put this, be clear or there's no one single answer to this. If you take a beginning retreat and who, after retreat, goes back home, obviously there will be gaps. But if you take someone like the Venerable Sadhu Pandita Bhimamsa of Burma, who passed away recently, then you'll see that it is possible. And the Venerable Sadhu was extremely mindful during all of his daily activities. But this, of course, doesn't come easily. It requires years and years and years of training. No, and he would make it a point to, when having to look maybe to the left or to the right, he would do this mindfully, with mindfulness turn his head slowly and mindfully. And so these small things that we can train in. E non c'è una risposta univoca a questa domanda. Se prendiamo il caso di un principiante, di qualcuno che si è appena avvicinato alla meditazione, quando tornerà a casa da un ritiro, certamente ci saranno dei gap nella sua consapevolezza. Ma se invece guardiamo ad esempio a Sayadaw Pandita, che è recentemente ispirato, e lui era veramente consapevole momento per momento, e si poteva vedere che compieva ogni azione, anche la più piccola, con consapevolezza, lentamente, e naturalmente questo livello non si raggiunge facilmente, non si raggiunge in poco tempo, sono necessari molti anni di addestramento, ma è possibile, e quindi il suo caso dimostra che è possibile avere una consapevolezza continua anche nelle attività quotidiane, nella vita quotidiana. Now, so you're asking how can one prevent or at least minimize this sudden lack of continuity of mindfulness? Well, whenever you recognize that a lot of absent-mindedness is there, then stop. Then stop doing what you're doing and maybe take a deep breath and be mindful of the rising and falling movement of the abdomen, or be mindful of sensations in the feet or in other places of the body. Be mindful of your prevalent mental states. And then when you've refocused your mind, then keep going. Per quanto riguarda come limitare questi stati non salutari, non appena ti accorgi che c'è uno stato non salutare che ha preso il sopravvento, fermati, smetti di fare quello che stai facendo e focalizzati sul salire e scendere dell'addome, o su qualche sensazione predominante nel corpo, o sullo stato mentale stesso che predomina in quel momento. O come primo suggerimento Sayadaw diceva: fai un respiro profondo. E una volta che la consapevolezza, la mente si è calmata, la consapevolezza è ristabilita, allora riprendi a fare quello che devi fare. If suddenly you find, you know, that suddenly you're getting really restless for whatever reason, and you're making, you start, you're making mistakes, then again, stop, and maybe take a few mindful steps down a corridor, or do certain simple activities really mindfully. Se vedi che ti rendi conto che stai diventando veramente irrequieto e inizi a fare a compiere degli errori, allora di nuovo fermati, fai qualche passo lungo il corridoio in consapevolezza, o fai qualche semplice azione molto lentamente. If the mindset is totally overwhelmed by a storm of unwholesome mental states owing to some difficult situation, then as soon as you get back home, or as soon as you find some quiet place, sit on your cushion. E se la mente è completamente presa in una tempesta di stati non salutari, non appena torni a casa o non appena trovi un posto tranquillo, siediti in meditazione. And so be careful not to take any major decision in such a state. E certamente evita di prendere una qualunque decisione importante quando sei in uno di questi stati. No. So let your mind calm down, let wholesome mental states re-arise before you decide something. E quindi in queste situazioni fai sì che la mente si calmi e che tornino degli stati salutari prima di prendere una qualunque decisione. No, does that answer your first question? Yes, it does. Okay, so now comes number two. In the daily meditation practice at home, it feels like the time is used just for cleaning out the collected defilements, or you can also say garbage, and not going clean, and not going deeper. Ecco, la domanda è, pare che nella pratica formale quotidiana il poco tempo che c'è a disposizione serva a ripulire la mente dagli inquinanti, o Sayadaw dice, li possiamo anche chiamare, ma possiamo anche dire la spazzatura che è stata accumulata durante la giornata. Spazzatura. Learn something. So then the question is this good enough just to keep afloat? E quindi si fa questo senza però andare oltre. E questo è sufficiente per restare a galla? Now, what you're stating here at first is certainly correct. Daily practice is a way of purifying the mind of the grossest defilements that have accumulated in the course of a day, or at least those that are present when one is practicing. E questa affermazione che fai è corretta. La pratica quotidiana serve a ripulire la mente dagli inquinanti mentali più grossi, più grossolani, che sono stati accumulati durante la giornata o che sono presenti in quel momento in cui si sta praticando. And so to achieve this much is already pretty good. Raggiungere questo è già una cosa piuttosto buona. So it helps to maintain at least a relatively pure state of mind. Questo aiuta a mantenere un livello di almeno una relativa purezza della mente. Now, if you have enough time for practice, then the thing to do would be to first let the mental defilement, to be aware of those mental defilements, and to be aware, to observe them, to know their nature, and then when these mental defilements gradually calm down, gradually subside, then explore new territory in your practice, at least a little bit. E la cosa ideale, se hai abbastanza tempo da dedicare alla pratica, è quella di in primo luogo lasciare che la mente si calmi, quindi essere consapevoli di questi inquinanti mentali, etichettarli, osservarli, conoscere la natura e lasciare che man mano appunto se ne cessino. E a quel punto continuare la pratica e poter così esplorare nuovi territori. Mm. Now, if however you don't have enough time for your daily practice to achieve this, then what you could do is whenever things are, the defilements are piling up, it's getting too much, then maybe go for a self-retreat at home over the weekend. And also some extended mindfulness period. It doesn't have to be a whole week or so, just an entire day or 2 days. Tuttavia, se non c'è abbastanza tempo per fare questo, allora quando si vede che gli inquinanti si stanno accumulando, stanno diventando veramente troppi, allora è il caso di prendersi una giornata, magari una giornata nel weekend o se possibile anche l'intero weekend, per fare un ritiro autonomo a casa. Mm-hmm. I know of one Burmese lady who back then lived in Australia working for a big Australian bank, and she was very devoted to the meditation practice. And so she would typically on a Friday afternoon after work, getting off work, do the shopping, go back home, cook the food for the weekend, switch off the telephone and practice until Sunday evening. And she would do that weekend after weekend. Conosco una donna birmana che viveva in Australia e lavorava in una grande banca ed era molto devota alla pratica, quindi quello che lei faceva ogni venerdì era andare a fare la spesa, cucinava per il weekend, spegneva il telefono e iniziava a praticare fino a domenica sera. When a lot of when the garbage pile gets too big, then we might experience this as some, let's say, mental pressure, and becomes increasingly uncomfortable. So the suffering increases. Now, this may be seen as a terrible thing, but it may also be seen in a very positive way. It pushes you towards signing up for the next retreat. Quando la spazzatura mentale si accumula, può diventare veramente opprimente, questo diventa una sofferenza e questo può essere visto come una cosa terribile, ma si può anche vedere dal lato positivo, perché questo ti spingerà a prenotarti per il prossimo ritiro. Just to share a small story. On one occasion, a foreigner working in Southwest Asia, working for some social aid organization, and he was getting busier and busier and busier. He realized he had less and less time. Things got so bad that he didn't even have time to trim his fingernails. And it is at that point that he decided it was time to go to Burma and go for a longer retreat. And that's what he did. Vi condivido con voi una piccola storia. C'era un meditante un meditante europeo che viveva e lavorava nel sud-est asiatico per un'associazione umanitaria Era arrivato al punto di essere così impegnato dal suo lavoro che non è arrivato al punto di non avere nemmeno il tempo di tagliarsi le unghie. Ed è stato a quel punto che ha deciso che era il momento di fermarsi e andare in ritiro, a fare un ritiro in Birmania, ed è quello che ha fatto. And certainly, then usually after a retreat or with a retreat, one the battery gets recharged, and then you're ready for another another round. Another round. Is it okay to view it as the daily practice sustains, and then you go to a retreat to your practice? Is it okay? That's correct. That's indeed the idea of doing intensive retreats once in a while. So those intensive retreats, for those who are already somewhat established in the practice, serve as boosters. And also, during an intensive retreat, we practice 12, 13, 14 hours a day, and that leads to a quick development in one's meditation over a short period of time. And then when the end of the retreat comes, you go back to your normal life, and your mindfulness drops to some extent, accumulate more defilement, again, more and more defilements, and sooner or later you go for another retreat. Sayadaw dice che alla fine di un ritiro si è energizzati, e questo quindi la mente è in un buono stato, c'è energia, e questo ci dà anche le forze poi per riprendere. E poi Petra chiede ulteriormente: ma è corretto vedere la pratica quotidiana come qualcosa che, diciamo, mantiene, e poi i ritiri come i momenti in cui approfondire e sviluppare ulteriormente la pratica? Sayadaw dice che sì, è corretto questo. Quindi per un meditante esperto, già avviato, i ritiri servono proprio a sviluppare ulteriormente la pratica e servono come qualcosa che dà impulso, che dà carica alla pratica, e quando si torna alla vita quotidiana poi il livello di pratica tenderà a calare, torneranno gli inquinanti e poi si ritornerà ad un altro ritiro. No. Okay, does this answer your question? Okay, go on. So, any other questions? We have another 10 minutes, maybe. Abbiamo un'altra decina di minuti. Simon. Oh, after the precepts. Appamadena sampadita. Which one? Idame silam magavana jnana sampaccheo hotu. So you made this certain taking of the merit that arises from taking the precept sila, may this be conducive to the realization of magga, so noble path, the realization of noble path knowledge, and pada is of noble fruition knowledge, and both of those take nibbana as an object. It's a high aspiration. E quindi i versi che si recitano dopo che si sono presi i precetti significano che grazie ai meriti acquisiti tramite la pratica della virtù, sila, possono questi meriti essere una condizione per il raggiungimento della magga pala, quindi del sentiero della... il nobile sentiero e il nobile e la fruizione, e in entrambi questi prendono come oggetto il Nibbana. Quindi è una alta, nobile aspirazione. Another question. Yes, Sana. Gautam, let's hear. What are those? The ninth satna precept is satna, that of metta. One vows to spend the day with an inclining the mind towards satna, loving kindness towards all beings. And satna, then the ten precepts consist of the eight precepts, breaking up the seventh precept of Vikala, Nachagita Vadita Visukha Dasana, that becomes one, and then Malaganta Vidipana Dharana Mandana Vivasana Santana Vusnatana, that becomes another one, so two, those number seven becomes two, and then at the end is added not to handle gold and silver, or in other words, money. And that is a precept that is traditionally taken by the novices. Not novices, so whoever decides to become a novice prior to ordaining as a monk or as a nun would then typically observe the ten precepts. Sayadaw Voltaire ha citato i 9 e i 10 precetti. I 9 precetti sono gli 8 precetti più il 9 che riguarda la metta, quindi si inclina la mente ad avere un'attitudine di metta verso tutti gli esseri, mentre i 10 precetti corrispondono agli 8 precetti, in cui il 7° precetto è diviso in due parti, viene diciamo separato da un precetto diciamo se ne ricavano due, e quindi viene diviso in due parti, e il 10° precetto riguarda il non possedere, non maneggiare oro e argento, in altre parole denaro, e di solito i 10 precetti sono presi dai novizi, quindi da chi vuole diventare monaco o monaca pienamente ordinato. Yes. No. The question to Gianni and to all of you, tomorrow morning when should we start with a final Dhamma talk on mindfulness in daily life, and a few more questions.